anima. Non mi piace pensare al destino, che cammina pesante su un manto di sogni. Tu con me, in un mondo ormai fatto di pianto e di scampo. Tu con me, in un mondo ormai fatto di pianto e di scampo. Sbagliato a ferire un sogno senza averlo toccato. Non so se sia morto oppure sia vivo. Che è più forte di un sogno è solo il rimpianto.